Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Tu continui a dire porcheria, insulti tutti, interrompi, perché sei capone nell'anima. Sei l'unico ebreo fascista che io ho conosciuto nella mia vita. Sei ebreo e fascista. Grazie, sì, Vittorio. Sei un fascista. Ciao, grazie. Ciao. Senti, scusa, fammi dire l'ultima. Aspetta, dopo cosa. La pubblicità, senti. Però. Dopo la pubblicità. No, subito. Dimmi. Dia a Parenzo andare a fare in culo. Ciao, buona ciao, notte. Ciao. Se non hai argomenti, stai zitto, pistolino. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dobbiamo creare una nuova istigazione popolare nei confronti del rock, nei confronti dell'hard rock, nei confronti dell'heavy metal, nei confronti della rabbia che noi sentiamo. La rabbia ha anche un cuore, l'ho già detto, lo so. La vita è il nemico che si infila nel palazzo, dove oltre la camera da letto c'è anche la porta del cesso. Buonasera cari arancioni, abbiamo raggiunto un'intesa con Forza Nuova, movimento che ormai da tempo ha abbandonato certe sue posizioni estremistiche che noi non avremmo mai condiviso. Non ci sono estremisti, non ci sono razzisti, non ci sono fascisti. Mussolini disse che eravamo un popolo di santi, navigatori, eroi e poeti. Ci ritroveremo a essere un popolo di coglioni, di musulmani e di frosci. Vi piace Bella Ciao? Guardatevi La casa di carta, avete rotto il cazzo. Tapparezzo, mettiti anche la maschera e fatti inculare. Ciao. Cugio, ma se noi proponessimo uno scambio alla pari, Roberto Speranza con l'assistente di Trump che si chiama Hope, quindi Speranza per Speranza e lei viene da noi. Sì. Parenzo è d'accordo, mi sembra, in questo scambio. È d'accordo con questo scambio, mi sembra, no? Speranza Hope. In diretta da Roma, David Parenzo. Buonasera. Ho appena nella giornata di oggi dato mandato al mio ufficio legale per querelare il quotidiano Libero e Giuseppe Cruciani e la nave di Teseo, ovviamente. Perché? Anche la nave di Teseo, è querelina così. Perché è uscita un'intervista immonda oggi sul quotidiano Libero. Sì. Un'intervista sì, in cui davanti, sì. Mi si cita, sì, si cita a proposito, a domanda del cronista, sì. Con tutto il tempo che passate insieme, una fantasia su Parenzo te la sarai fatta. E Cruciani risponde: Parenzo è la persona che mi accende meno fantasie erotiche al mondo. Ha avuto 4 figli da 2 donne diverse e quindi almeno 2 persone le ha convinte, ma non ha convinto me, insiste l'intervistatore. Magari anche lui ha superato quota 100, si parla delle donne che ovviamente uno avrebbe avuto nel corso della propria vita. Può darsi, ma è monogamo. Per avere notizie di un Parenzo vivace, e qui scatta la querela, bisogna risalire ai tempi di Tele Lombardia. Bene, ho dato mandato già ai miei legali e verrà ritirato e mandato al macero il libro che per altro, unico caso nella storia, costa 50 euro. Allora, un libro costa nudi 19. Che costa 50 euro, ditemi cosa c'è dentro. Cosa c'è ma dentro? Tu sei un distruttore di editoria, un distruttore. Sì. In collegamento, ritorno da Abano Terme, dal suo cazzo di lettone, Alberto Gottardo. Sentivo parlare di quota 100, anch'io mi sto avvicinando a quota 100, quota 100 kg. Inizio a vedere il primo obiettivo. Cioè, veramente tu ancora sei ancora sopra i 100? Cioè, tu pesi ancora più di... Sei tecnicamente un ciccione di merda, come direbbe qualcuno. No, di merda no, un ciccione sì, aspirante, però. Un aspirante ex ciccione di merda. Ero 114 quando sono entrato qui dentro, sì. E adesso sono 106. Cioè, ma ti sei fatto un culo così per arrivare per perdere 8 kg? Cioè, in quanto in un mese 8 kg? In un mese. Ma ti davo l'M, ti davo l'M e eri già a 15 kg. Io da l'M non mi farei neanche cambiare l'olio sulla macchina, pensi a te. Beh, l'olio sulla macchina... Quello fai bene, magari non lo sa fare, che cazzo vuol dire? Partiamo con una cosa molto seria, che è questa roba ridicola, patetica, inutile, dell'obbligo delle mascherine all'aperto. E lo dici nel giorno in cui ci sono 3.679 casi? Io quelli manco li calcolo, io calcolo solamente le terapie intensive, che certo sono aumentate, Speranza, però bisogna vedere che la situazione è seria e delicata. E se l'ha detto Speranza, grazie, che devo fare? Ministro, sì, grazie al cazzo, ministro. Potrei dire io. Grazie al cazzo, la situazione è seria e delicata. E grazie al cazzo. Allora, E finché rimane seria e delicata, lui rimane ministro. E quindi la terrà seria e delicata finché può. Ah, ecco il complottista, diciamo il dietrologo, la dietrologia gottardiana. Il governo si tiene solo se c'è l'allarme, chiaro, del coronavirus. Ma è evidente. Allora, è evidente. Obbligo di mascherine all'aperto se si è vicini a non congiunti. Ora, ragazzi, qualcuno mi spiegherà come cazzo faranno le forze dell'ordine a punire con multe da 400-1.000 euro se tu devi portarti la mascherina, però la puoi portare, attenzione, la puoi portare all'aperto, la puoi non portare all'aperto solamente se vai con un congiunto. Ti assicuro che non l'ho capita questa cosa. Ci vuole cosa la responsabilità personale. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire questa roba? La mascherina, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Poi anche qui dentro è obbligatorio al chiuso in tutti gli uffici. E tu che uno come cazzo fa a condurre una trasmissione radiofonica? Spiegami. No, adesso mentre la conduci te la togli, ma se stai in uno spazio. No, perché è al chiuso. Tecnicamente è al chiuso. Quel posto lì, ma no, ovvio, dai. Ma ovvio cosa? Non è ovvio un cazzo. In tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private. Questo è il punto fondamentale, grazie al cazzo, le abitazioni private. Però anche qui, teoricamente, no? Al chiuso, e dunque non è un'abitazione privata. Attenzione, obbligo di indossare la mascherina varrà in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui sia garantito in modo continuativo la condizione di isolamento. Che cosa cazzo vuol dire? Ma cosa vuol dire? Se non c'è il distanziamento, l'obbligo è mettersi la mascherina per evitare che la gente sia troppo vicina. Io, se posso suggerire una cosa, metterei nel prossimo decreto del governo una chiusura specifica, molto mirata ma salutare, un lockdown di 15 giorni della Zanzara. Ma non della radio, attenzione, ma della fascia tra le 18:30 e le 20:50. Troppi negazionistici, troppi negazionisti. Io lo metterei nel decreto. Ragazzi, ma me la spiegate voi quell'obbligo di mascherina all'aperto se si è vicini molto semplice, a non congiunti? Molto cioè, semplice. Con i congiunti puoi anche non andare. Ma che cazzo vuol dire con i congiunti? E poi che ne sanno quelli? E due fidanzati che abitano in due case diverse? Due fidanzati che abitano in due case diverse? No, ma non torniamo al dibattito di questo autunno, dell'autunno scorso. Due fidanzati passeggiano, abitano in due case diverse, cioè non sono congiunti, sono senza mascherina, che gli fai la multa da 400-1.000 euro? Siete ridicoli, tu che sei il manutengolo di Speranza, di Gualtieri e di Conte alla fine, perché sei il manutengolo di Speranza tu, il portaborse di Speranza. In Gran Bretagna 14.000 contagi in 24 ore. Ma cosa c'entra? In Italia 3.000. Ma cosa c'entra? Vuol dire che tamponi. Hanno fatto i tamponi. Meluzzi. Andiamo con Meluzzi. Partiamo con Meluzzi. Vede, la misura delle mascherine all'aperto, non secondo me, che sono un povero medico legale criminologo, ma secondo il professor Crisanti, che certamente è tra i più allarmisti, professor Gallo, direttore del Sacco, Silvestri, grande virologo internazionale, per non parlare poi di Bassetti, che potrebbe essere accusato di essere un po' troppo poco allarmista. La misura delle mascherine all'aperto dal punto di vista virologico è semplicemente, assolutamente ridicola. Questo è un po' di dubbio. Mascherina e sudditanza psicologica. Cioè, la mascherina serve ad imporre a tutti un clima di controllo, di obbedienza, di sottomissione, di vincolo, di limitazione della libertà, e in questo probabilmente ha un effetto, senza dubbio, perché inducendo una paura ingiustificata. E io piuttosto voglio suggerire a chi ci ascolta un'idea. Io suggerisco, siccome l'ha detto, non lo dico io, ma mi trincero dietro il giudizio del professor Vaia, direttore dello Spallanzani. Allora? Oggi i più frequenti contagi da Covid-19 avvengono all'interno dei sistemi di aereazione dei mezzi di trasporto. Ferrovie, bus, aerei. Quindi io suggerisco a coloro che saranno contagiati di fare immediatamente causa ai sistemi di trasporto pubblici, affermando piuttosto la volontà di fare resistenza civile, dicendo: se noi non accertiamo che sistemi di condizionamento siano privi da Covid, con sistemi di sterilizzazione che oggi non ci sono, noi faremo caso. Altro che mascherine. Incredibile. È un'influenza, è esattamente quello che dice Trump, ragazzi. Avanti tutta, Meluzzone, avanti tutta. Nessuno può denunciare nessuno. Libertà di espressione, sempre, anche per i negazionisti. Non è così, avete rotto il cazzo con questa roba qua. Bisogna vedere di che cosa muore la gente. Non è mica detto che muoiono per coronavirus, dai, su. C'è un aumento vertiginoso dei contagi. Ma qua vertiginosi i contagi, l'ha detto l'altro giorno anche cosa. Sono milioni i contagi, dai. I ricoveri. Oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che è contagiato un abitante sulla Terra su 10. Un abitante della Terra su 10. Cioè hanno dato 700 milioni. Ma di che stiamo parlando? E dunque la mortalità è ancora più bassa. Io non credo all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma prendiamo per buona questa roba qua. Ha detto che se i veri contagiati sono 700 milioni, uno su 10 sulla faccia della Terra, uno su 10, dunque la mortalità è ancora più bassa. Avete rotto i coglioni con questa roba qui dell'allarmismo sfrenato. Avete rotto i coglioni, chiaro? Scusami. Allora, ho delle due l'una: o noi accettiamo di affrontare questa influenza, perché di questo si tratta, in cui il numero di morti è risibile e in cui il 99,6% delle persone guarisce, o altrimenti affrontiamo le cose serie e non la pagliacciata delle mascherine. Una perché pagliacciata. Di pagliacciata si tratta. Giusto. Cruciani, sulle mascherine, giù le mutandine, siamo al top. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Appello alla maggioranza silenziosa. Boicottare, ripeto, boicottare i momenti della Zanzara, sia nel live sia nel podcast, quando Cruciani invita personaggi a parlare di porcherie, prostitute, pornostar, transessuali che si prostituiscono. Chiudete tutto e sostituite le porcherie con la lettura di un libro. Uno a caso, per esempio, David Parenzo, Falsari, Marsilio Editore, 2019. Molto bene. Scusate, poi tutta questa attenzione verso le mascherine all'aperto. Io mi sono trovato per caso a prendere due treni regionali. Ma scusa, uno, stiamo parlando di attenzione, mascherine. Uno Padova-Verona. Parliamo di mascherine uno quando nello Padova studio di Radio Verona, 24 domenica, c'è l'altro... la foto di un culo? No, parliamo non c'è. Di mascherine quando nella nello studio di Radio 24 c'è la foto del tuo dov'è culo mentre conduceva Barisoni? Dov'è? Ma che siamo matti siamo? Ma la che foto siamo di un matti? Culo? Ah sì, va bene, siamo sì, la foto, matti? La foto ma di un culo matti? E che sarà mai la foto ma di un culo? Ma è uno sfregio assoluto, a sfregio, sfregio assoluto. Quello conduceva Forum, Focus Economia, no, Focus Economia, c'era il foro, c'era forum, il tuo foro, ma c'era il tuo foro del e cosa vorresti fare? Una denuncia? Vergogno, cosa vorresti io fare? Farei chiudere adesso, io ma farei come chiudere mai è stato tolto? È stato tolto per proteste da parte del vice direttore, però che c'entra? Era lì per una prova, è rimasto lì, ma qual è il problema? Non ho capito. Ha attirato più persone, dunque uno dovrebbe essere più felice, sì, ha attirato certo. Più persone. Si vedeva solo il culo, peraltro, si vedeva solo il culo, devo dire, come dire, inquadrato abbastanza bene, ma chi se ne frega? Qual è? Cioè, adesso abbiamo paura degli sberleffi? Di cosa abbiamo paura? Degli sberleffi? Abbiamo paura dell'ironia? Dai, su, non diciamo cazzate, dai. No, dicevo, io mi sono trovato a prendere due treni regionali. Uno da Milano, da Verona, sì vabbè, da Padova a Verona, l'altro da Verona a Milano, due treni regionali. Cioè, tu sei tornato a Milano in non regionale, c'erano, non sei c'erano, proprio, non sei c'erano, taccagno. No, non sei c'era, taccagno, no, per, no, non c'era posto purtroppo, in questo momento non c'è non posto la posto. Domenica sera per tornare a Milano. No, ma ti figura che cazzo me ne frega sui regionali, ho sofferto come un cane, non c'era nulla per attaccare internet, volevo vedere la partita, eccetera. Allora, ti posso dire una cosa? Non c'è alcun controllo. La gente si ammassa, ma pensassero certo. A queste robe qui. La gente si ammassa, allora siete preoccupati per queste cose? Fate qualcosa sui treni regionali, no, sono pieni notato. Di gente, pieni. Ma hai notato che pieni. Sul Freccia Rossa se devi prendere il pezzo rosso a Intano ti controllano la temperatura. La, se devi cazzo, prendere no, quello te la controllano. Puoi morire? Sì, puoi sì. morire tranquillamente. Non gliene frega un perché cazzo. Non te la controllano. No, no sì, certo. te la controllano all'inizio certo. mentre sali al binario, ma uno in realtà può arrivare da un altro treno e fottersene. Chiaro, non è il punto, ma sono tutti ammassati. Mi sono trovato lì ammassato, non sapevo male, che fare. Male, ma male. Che dovevo fare? Ma male che diglielo alla Speranza. Diglielo a quelli delle regioni che se ne sbattono i coglioni e mettono questo obbligo ridicolo di mascherina all'aperto. No, c'entrano le regioni lì, dai, su. Ma chi è che va all'ASL? Io se ho il mal di pancia ti pare che vado all'ASL? Io vado da un bravo medico, non all'ASL. Ma l'ASL non so neanche dov'è, io a Bergamo o a Milano. Ma che me frega dell'ASL? Questa devo dire, è l'audio migliore del giorno. Allora, Vittorio vuole farlo risentire. Ieri da Giordano. Vittorio Feltri e la vicenda ASL Napoli che ha bloccato il calcio. Ma io non so neanche che cos'è l'ASL. Senti, risentiamo perché c'è cioè, ma l'ASL, io non sono mai andato all'ASL in vita mia, ma è meraviglioso. Io vado da un medico, però l'ASL in teoria ci sono medico i medici. Privato che è un medico bianco laureato in Italia che non ha la pelle scura e non mangia banane. Vabbè, ma che c'entra quello? Io mi dovete non interrompere, io mi faccio curare in Italia e non ci sono questi negri laureati all'università dell'Uganda e abituati a saltare da una liana all'altra. Ma che c'entra prima di fare delle operazioni? Ma cosa c'entra i medici neri adesso? Una volta ero all'ospedale, ho visto un signore di colore e gli ho detto scusi, pulisca qui per terra. E quello mi ha detto io sono il primario di cardiologia. Allora gli ho detto e allora scriva primario, perché se io vedo un negro immagino che pulisca per terra nella sala operatoria, perché è negro e io non vedo negri cardiologi nel nostro paese. È pieno di negri cardiologi. Ma perché nel Congo ci sono scuole di cardiologia? Vi risulta che nel Congo vi siano si chiama Congo belga peraltro, e quindi evidentemente c'è un problema. Ma sì, no, ho capito, però che c'entra il cardiologo nero? Non ci può essere un cardiologo un primario nero. Ma okay. Non mi risulta che negli ospedali ci siano dei negri che peraltro col camice bianco stona pure il nero sul bianco. E vedere un negro che gira, io pensavo che dovesse pulire la sala operatoria. E invece era il primario. Mi ha detto che era un primario, allora gli ho detto non deve scrivere primario, sono primario anche se sono negro. Questo mi sembra. Anzi, sul calice. Deve scriverlo. Io ho detto solo, dicono che sono razzista. Gli ho detto semplicemente che se sei negro e lavori in un ospedale, devi scrivere che cosa fai. Perché altrimenti io penso, ovviamente, siccome non mi risulta e non sono razzista, che in Zimbabwe ci sia una scuola di cardiologia dello Zimbabwe, no, allora ho detto di scriverlo. Se questo vuol dire essere razzista, ma è stato denunciato, è stato denunciato sicuramente, penso sia stato denunciato perché c'è il politicamente corretto che tu e tutti pensano che i negri siano dei medici. Io non conosco negri medici. Dunque, conosco negri che puliscono i treni, che puliscono le stazioni, che puliscono i bagni delle stazioni, ma non conosco negri medici. Dunque uno dovrebbe scrivere sono primario anche primario, se negro. Dovrebbe anche mettere un cartello davanti primario e dietro, anche se negro, sì, primario nonostante sia negro. Nonostante sia negro sono un primario. Ma chi è che va all'ASL? Io se ho il mal di pancia ti pare che vado all'ASL? Io vado da un bravo medico, non all'ASL. Ma l'ASL non so neanche dov'è, io a Bergamo o a Milano. Ma che me frega dell'ASL? È stupendo, ragazzi, è veramente stupendo. Donato da Bari. Però effettivamente vedere il direttore che entra in una ASL mi sembra molto strano. Alza il telefono e chiama i suoi dottori, Zangrillo, eccetera. Dimmi come faccio io, peraltro, anch'io difficilmente vado all'ASL, devo dire la verità. Esatto. Perché tu invece vai all'ASL? Adesso non diciamo cazzate. Sì. Chiami quelli dell'ospedale ebraico a Roma, e ti fai curare. Israelitico, quello che. Ma no, non sei mai normale. Andato a un ASL in vita tua. Probabilmente sono andato più, adesso fai tanto il fighetto. Non sei mai andato a un ASL in vita tua. Ma io vado dal medico condotto, dal bravissimo medico. Ma quale medico condotto? Sarà un medico che ti si fa pagare fior di quattrini. Dai, su, Donato da Bari. Donato, che non è Donato. L'argomento è non sono mai stato e dove hai partorito? Dove hai fatto partorire tua figlia? In un ospedale pubblico? Punto interrogativo. No, in un ospedale privato. Adesso scopriamo gli altarini. Donato da Bari, un ottimo ospedale che si chiama il Casilino. Ma cosa dici? Gli altarini meglio di no. Donato da Bari, vai. Donato da Bari. Allora, l'argomento è questo. non sono mai stato omofobo, ma lo sto diventando, perché omofobo, perché sei diventato omofobo? Sì, lo sto, perché guardando la TV la sera, guardando i programmi che frequenti anche tu, il 5 sesti degli ospiti, degli opinionisti ormai di questi programmi sono tutti omosessuali o lesbiche o transessuali. Io non sono transessuale. Cruciani non messo fa il testo che non è di questa categoria. Cioè, non ha messo un culo in copertina. No. Ha messo un culo in copertina, è un chiaro segnale. È deviato e lo sappiamo, ma non è omosessuale. Ma non sono deviato. Ma non sono. Comunque, Donato, tu mi stai dicendo una cosa molto precisa. Tu mi stai dicendo che secondo te la televisione è eccessivamente riempita da froci, transessuali, gay, finocchi, come li chiami? Ormai tu? Il modello è quello. Ormai il modello è quello. Il modello è quello, e quindi i bambini, i ragazzini che guardano questo programma, non c'era sto cazzo di posticipo l'altra sera, mi è toccato vedere Barbara D'Urso e ho visto questi. Non è che ti è toccato, lo hai guardato perché hai voluto guardare, altrimenti uno cambia. Guardato perché non c'era un cazzo da vedere. Ah, no, perché volevi guardare il programma di Barbara D'Urso, punto e basta. Dai, perché ti piace il trash, ti piace ogni tanto la vita, la realtà, oltre che il trash. Dai, su. Il trash, tutto quello che vuoi. Si è parlato solo di fare outing del Garco. E beh, qual è il problema? Il grande fratello che era frocio. La contessa che chiamava Frocio. Ma il mondo è Frocio. Il mondo è Frocio. Anche tu sei Frocio alla fine. No, dentro di te, tu lo vuoi prendere in culo e non lo sai ancora. Ma stai sbagliando proprio. Fermo là, ti richiamo dopo. Qui ci abbiamo interruzioni e cose. Voglio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Se vuoi parlare al telefono con Zanzara da Pallotto 0024 0024 oppure se vuoi mandare un facile messaggio con WhatsApp 393 71 71 701. La nostra società sta morendo. Siamo invasi da froci e negri. Lorenzo, due allenamenti a settimana non sono sufficienti. Ti alleni male e si vede. Se vuoi ti posso fare a titolo gratuito da allenatore. Ma trasformerò in pochi mesi il tuo fisico tracagnotto in un corpo atletico. Ma e tracagnotto che cazzo. Ciao Lucia, sono Blasco, ma sì, dimmi. Parenzo che si allena in palestra. Sì, non si può guardare, sì, hai ragione Blasco. Ma poi che panza c'hai? Sei fatto strano, tutto secco dietro e la panza davanti. È un classico. Quale panza? Fai proprio schifo. Ma chi t'allena, oh? Una checca? Beh, adesso. Ma che è quel pesino là? Mamma mia, che schifo, guarda. Sei una vergogna, oh. Ma è il Circolo Canottiere di Lazio, mi sbaglio. Ma mi sa che te venga a trovare. Potresti dare il tuo indirizzo al signor De Blasco? Dov'è che ti alleni? Scusa, ma che Blasco è quel coglione che fa il wrestling? Sì, sì, sì, sì, fascista. Fascista che fa il wrestling. Sì, ultra della Roma, sì, ultra della Roma. Ma non so, ultra di che cosa, non lo so, ma è un coglione, basta. Per me. Allora, bisogna superare il concetto di tradimento. Solo in questo modo si possono garantire i rapporti a lungo termine. Sto leggendo l'ottima intervista al sottoscritto fatta dal signor Biasini. Ma ormai siamo al delirio, c'è un conto è che te lo legga io. Ma tu addirittura sei arrivato al delirio di leggere l'intervista che hai fatto. C'è già il fatto che magari lo citi io, Gottardo, è, come dire, di una cafonaggine inaudita. Sì, ma sì, che lo legga tu. Ma che lo, no, che lui ma se lo autolegga. Scusa, è l'unica trasmissione. Sì, è l'autocitazione. È caleidoscopico, dai. Allora, ripeto, bisogna superare il concetto di tradimento. Solo in questo modo si possono garantire i rapporti a lungo termine. Se il Vaticano e la Chiesa in generale fossero più pragmatici, farebbero una campagna a favore dello scambismo. Sì, geniale, una cosa l'obiettivo folle, è garantire l'amore a lungo termine. Allora bisogna offrire alla gente i mezzi per sfogare i propri istinti e far sopravvivere l'amore. Scusa, ragazzi, ma se tu se ci pensi sul serio, la Chiesa, che è contraria al tradimento, l'amore eterno, la fedeltà, il matrimonio, quello che vuoi, va incontro al disastro perché la gente si separa, non va più in chiesa, eccetera. Se tu invece fai una grande campagna da parte dei preti, io vorrei un prete che qui parlasse apertamente del fatto che lo scambismo, il tradimento, andare con più persone, tradirsi e dirselo naturalmente, non nasconderlo, potrebbe essere la grande rivoluzione che avvicina la Chiesa al popolo. La grande rivoluzione, perché rafforza il matrimonio, rafforza il matrimonio, ragazzi, è così, sì, rafforza il matrimonio. Potrebbero introdurre due settimane giubilari, una sotto Natale e una sotto Ferragosto, libertà, in cui libertà. Tu ritorni single per una settimana, tua moglie va dove cazzo vuoi, tu marito anche, sì, e poi sì. Senza fare prigionieri. Il Vaticano dovrebbe fare una grande battaglia, grandissima battaglia, proprio nell'interesse del mantenimento del matrimonio. Guardate che me la sono inventata sul momento facendo questo book, questo libro che non cito più perché pare non si possa più citare. Però è vero, allora, se ci pensi. Non si può più dire nudi? Diciamo. Fermi tutti. Donato, torniamo subito da te. Fermo. Donato non è il regista di cose, il regista di Giordano. Nino da Palermo, grillino, ex grillino palermitano. Fermi amico tutti. Mio, come amico stai, mio. Nino? Ti abbraccio. Non ti scordare mai l'ex, perché se no c'è l'ex male, Giuseppe. No, perché ex grillino palermitano. Giuseppe. Ma non fare, Zitto, fallo parlare. La fogna del qualunquismo, proprio la fogna del qualunquismo. Sei il leccaculo per eccellenza, sei un minchione, sei tu il promotore dei vaccini anti-influenzali, sei quello che avrai sulla coscienza tutte le persone che si vanno a vaccinare, grandissimo pezzo di merda schifoso, che non sei altro, non hai fatto alza in onda che promuovere i vaccini anti-influenzali. Ora tu ti prendi la responsabilità, appena tutti chi stare a casa la vaccinano muorono, e i suoi parenti hanno appena dato caso, capisci? Chi muore? Pezzo minchia, chi è che muore? O minchia, pezzo di minchia che non sei, lo dico io, babbo, lo dice Giulio Tarre, tu a babbo Giulio che sei, ma che ne sai tu di Tarro? Babbo, l'ultima cosa io che sei babbo, io sei ti sbatto te. Sulla minchia, tu sei sbatto sulla minchia. L'ultima cosa che hai letto è la formazione della nazionale. L'hai capito? A me non mi interessa, sei un pezzo di venduto leccaculo, puoi dire quello che vuoi, lo dimostri tutti i giorni. Con la voce. Dove cazzo scrotto sei con sei la tu? Voce. Scrotto con la voce, scrotto con la voce. Punti mieta, cos'è inutile, pezzo di nano malefico schifoso. Scusa, quali sono le accuse? Quali sono le accuse, Nino? Come quali sono le accuse? Tu dici che lui promuove le mascherine, promuove il terrorismo, è un giornalista terrorista, avete rotto i coglioni con questa, ma oramai la gente la narrazione terroristica l'ha capita. Tu parli con la gente per strada, dice la mascherina, ma la metto di Gesù in regola, metto tutta una minchiata, oramai l'abbiamo capito. Per quanto ancora dovete tirare la corda, tu e Casalino, ancora glielo dai il culo nello spogliatoio della palestra, no, a Casalino, ancora ti fai inculare da Casalino, ancora li fate, e ti portiamo via quella macchina NCC che hai da cialtrone, non ti preoccupare, perché ti dica la verità, Quereli, ti brucia, perché fai tu il trisom col cubano, fai il trisom col cubano e Casalino. Lascia perdere questo aspetto. Non c'entra niente. La vita privata delle persone, quello ti querela sicuro. Lascia perdere, perché mi dissocio totalmente da queste cose qua. Però scusami, Nino. Non querela nessuno, non ti preoccupare. Ma qua querelare, ma io sono a vergognare lo partito che rappresenta, che è il servitore italiano. Ecco, querela. Ma parla in italiano, parla in italiano. So parlare benissimo in italiano, ma io parlo in siciliano perché mi incazzo. Babbo, perché mi infervoro e quando mi incasso sono nervoso. Ma questo fa l'autista. Ma tu ti immagini uno che ha lui come autista a Palermo? No, ma è incazzato, Nino. Perché è incazzato? Perché vede la possibilità che il suo lavoro possa tornare di nuovo clandestino. Il tuo lavoro è compromesso perché sei un minchione, uno scassacazzi. No, nessuno salirebbe mai sulla macchina tua. Conte, tu sei il leccaculo di Conte, questa è la verità. Sei diventato il primo leccaculo di Conte, il primo giornalista in assoluto. Leccaculo governativo, però io ti dico la verità. Dimmi, Nino. Giuseppe, allora tu mi devi spiegare se è normale che tu accendi la televisione da sei mesi a ora e senti dire sempre la stessa cosa. Questa è la teoria sgarbiana. Ma che cazzo vuoi? Non è un influencer. una semplice influenza. Grande Donald, 10 giorni fa insultava quel coglione di Parenzo che Donald si era preso il Covid. Donald Tamis in tuo culo, su Covid non ammazza nessuno. Berlusconi è sano e chi ne vita, 40 anni che ha giusto Viagra. Berlusconi, è tranquillo. Ma di che cosa parlate? Che? 40 anni che? Ha giusto Viagra, avevi i tubi del cuore nuove, i tubi del cuore ce li ha nuovi, è compromesso la sua operata alla prostata, il Covid neanche l'ha ammazzato perché su Covid non fa male nemmeno alle mosche. Dovete dire la verità, cazzo. Beh, non dovete terrorizzare però il popolo. La gente muore, se no mi chiama la di gente nuovo. Muore, è morta, andiamo a vedere le cause, andiamo a vedere se è morta con il Covid o per il Covid. Perché cremavano le persone? La differenza no, di D e con. Io voglio sapere perché cremavano le persone. Io voglio sapere che ha fatto. Io voglio sapere che ha fatto la circolare di non fare l'autopsia e da bruciare ma a tutti. Ma quale circolare? Io voglio sapere. Ma non parlare di cose più grandi di te. Mangiati il pane Cameuzza e non rompere i coglioni. Nano di merda, sei un leccaculo. Mangiati il pane Cameuzza e non rompere i coglioni. Sempre la stessa cosa dici. Sei un povero coglione. Sei un giornalista terrorista. Mangiati la brioche col gelato. Ma che avete rotto il cazzo. Sei un giornalista terrorista. Ti sbatto sulla punta della ninja. Lo vuoi capire pure? Però voglio capire una cosa. Nino da Palermo sta avendo, cioè, ha dei legittimi dubbi su questa strategia terroristica di comunicazione. Nino da Palermo è il classico esempio dell'italiano coglione analfabeta. Ci stanno vendendo, Giuseppe, vogliono vendere il paese. Hanno bloccato dalla prossima settimana, hanno bloccato gli arrivi pure dall'Inghilterra, dal Belgio e dall'Olanda, che erano quattro cristiani che stavano vedendo un Palermo nei suoi mesi. Ora hanno bloccato pure i voli. C'è che il record devono dei contagi in Inghilterra, imbecille. Ma quale contagio? Tutti l'abbiamo su cazzo di Covid, l'anno di merda, quale contagio? Tu, oltre al Covid c'hai una malattia nella testa. Ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo tutti. Tracce di Covid ce l'abbiamo tutti. Tu c'hai tracce di merda nella testa, quello c'hai te. Ma è vero, più le tracce, qualche traccia di Covid. Ma Gottardo non è Gottardo, perché un palla, non è Gottardo. Gottardo, esci no, fuori. Io sono terrorizzato da questa persona che dimostra che dare il voto ai coglioni non fa mai del bene. Perché no, però scusa, questo ex grillino. Ma tu la pensi come lui? Non dire cazzate, la pensi come lui. È sul piano politico, no, io non sono così estremo. È sul piano politico. Questo si lamenta. Si lamenta di questo governo. Ti lamenti di questo governo. Hai votato per i grillini. Esatto. Quindi sai mea culpa. Ma i grillini sono dei venduti, ma io faccio mea culpa fino a un certo punto. Sei tu che sei un coglione, non devi più andare a votare. Allora non devi più andare a votare. Hai votato per qualcuno e poi non ha fatto quello che pensavi, che pure un coglione elettorale. Ma che c'è? Uno brucia la tessera elettorale. Ma che cazzo vuol dire? Ma io ti credevo più intelligente. Fai a dieta una cosa, no, ma stai lamentando del governo. Ti stai lamentando del governo che hai determinato. L'hai determinato tu. Esci di minchia hotel. Non c'è bisogno di parlare in italiano. Io sono veneto, non capisco parlare in italiano. Non c'è bisogno di ricoverarsi per perdere i chili. Ci vuole buona volontà. Mangia corretto, fa un'alimentazione corretta. È quello che sto facendo e cerco di mangiare corretto, fare un'alimentazione corretta e votare in maniera corretta, a differenza tua che ma hai che votato vuol con dire? Il culo. Ma che cazzo vuol dire? Ma tu vuol dire? Ma io pentiti, chiedi scusa, chiedi scusa per il cazzo di merda che hai fatto. Ma devi chiedere scusa di Maio, Fico e di Battista. No, devi chiedere scusa tu. Devi chiedere scusa tu. Ogni volta che chiamo mi dovete dire tu hai votato, ma finita la trasparenza. Andate a fare in culo tutte e due. Ha ragione Nino, lui ha votato. Ha votato, avete rotto il cazzo. Io l'ho votato, ma chi si sulzare tu e pezzi miei, che me ne sono mentita amaramente. Ora la prossima volta che telefono, arriva, hai votato perché hai votato. Poco costardo, sino a te c'è minchia del birro. Ti dico la verità. Ha ragione, siamo una testa di minchia. In italiano, io so parlare l'italiano, ma io sono Nino da Palermo e parlo palermitano. Tu sei Nino l'involuto. Tu sei Nino l'involuto. Nino l'involuto. Nino l'involuto, in culo ti sputo come Casalino, in culo ti sputo. Non te la infilo perché mi fai schifo. Nino, io sono veneto, non ti dico che sei un razza di mona, un povero coglion, perché parlo in italiano, capisci? No, ma però, parlo in italiano, però se sono incazzato devo essere reale, come vi piace a voi. Parlo palermitano. Ha ragione Nino al 100%. Voglio chiedere una cosa, perché non ti stanno sui coglioni gli omosessuali, però Nino, mi devi far capire questa cosa. No, Giuseppe, mi stanno sui coglioni è una parola grossa. Io non sopporto, come diceva l'ascoltatore di poco fa, quello che ha chiamato prima venuta dal giornale. Sì. Tutta già la pubblicità Francesca caccia televisione, non ne mette ci soffrono occhi. Ogni fiction c'è una storia gay. Sì. Ma perché tutta questa pubblicità? A così come diceva quell'ascoltatore, fanno deviare i pisciuttirdi. un pescettetto che ha anticchiato Bose e hanno 30 anni siamo tutti in un mondo, non so perché non vai a lavorare. Ma perché mi devi dire cazzate e non vai a lavorare un po'? Perché non vai a lavorare? Perché ci sempre cazzate? Cioè, vai a lavorare, vai a lavorare, prendi la tua, prendi la tua, ma prendi il tuo trattore a portare i tuoi clienti col tuo trattore, prendi il tuo trattore. Tu segretamente ti piace un cazzo, Giuseppe te lo dice sempre. Se Nino pensa che ci sono troppi Giuseppe, ma io ti faccio l'esempio. Oggi Marricampi trova a gara, arrivo a casa per mangiare, mi siedo. Rai 1, c'era la conduttrice, quella che l'anno scorso faceva la mattina ancora. La Bortone, La Bortone, molto brava. Aveva Rufonocchi davanti, una caparrucca, la nostra storia da 40 anni, Pino e Pinuccio, ma non ne siamo arrivate. Ma non è ghiacchina la vita di soci. Pino e Pinuccio, eri tu uno dei due. Eri tu uno dei due con la parrucca. Eri tu con la parrucca. Tu introdurre la legge del cazzo in culo. Eri tu con la parrucca. Eri tu, cornuto. Però fermo, io posso dire una cosa. Nino da Palermo sarebbe un grande confronto. Ma sai che a Palermo lo conoscono tutti come il cornuto? Lo conoscono tutti come il cornuto. No, cornuto no. Ciacci è chi che chiama l'avvocato e fa querela, manna a cagare la minchia che querela, no, che querela. Sai che a Palermo è conosciuto come il cornuto? Pino e il cornuto. Sì, lo conoscono tutti. Il cornuto, ma che gioia mia, il cornuto. Ti posso dire come la penso io di te. Pino e il cornuto. Un finocchio dopo di quello con tutto un radegone. Solo che sei, dai, come Gabriel Garco, quando è che fai outing tu? Quando confessi che sono stati fatti i miei quattro inseminazioni artificiali e non stamentai una storia con un produttore? Perché sei così ossessionato? Io voglio vedere a Verissima a te, io voglio vedere a Verissima a te che racconti la tua storia, dai, Parenzo, è il momento, pure Gabriel l'ha fatto, ti voglio vedere a Verissimo, diccelo cazzo, ti voglio vedere a Verissimo dalla tua fanin che fai questa confessione, dai. Ma perché sei così ossessionato? Pino o cornuto? Ciao. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Ciao Cruciani, ascolta, ho sentito con tanta attenzione quella mostra che ha intenzione di fare, molto molto interessante direi, e a tal riguardo volevo avvisarti che io ho un'amica estetista, quindi se ti interessa posso far due chiacchiere con lei e mi faccio tenere da parte varie tipologie di pelo, fammi sapere, ciao. Di cazzo, mamma mia. Ma chi è che va all'ASL? Io se ho il mal di pancia, ti pare che vado all'ASL? Io vado da un bravo medico, non all'ASL. Ma l'ASL non so neanche dov'è, io a Bergamo o a Milano. Ma che me frega dell'ASL? Allora ragazzi, qualche piccola frase che ho appreso oggi, c'è qualche piccola lettura quotidiana, caro Parenzo, offerta così al volgo agli ascoltatori. Innanzitutto Michel Houellebecq, scrittore francese che sicuramente conosci, no? Dici grande, non so se lo considererei ancora grande quando eretico, una specie di Céline contemporaneo. Dice delle femministe. Cosa dice delle femministe? Sono delle amabili idiote, inoffensive in linea di principio, rese pericolose dalla loro disarmante assenza di lucidità. Trump è uno dei migliori presidenti che l'America abbia conosciuto. È un provocatore, chiaro. Ah, perché se uno dice così è un provocatore. Sì, è un chiaro provocatore, uno che dice queste cose qui del femminismo, di Trump, è un provocatore, dai, Poi c'è una fantastica intervista di Amy, non so come si chiama, uno che conosco, su Rolling Stones di oggi, ad una poetessa che non conoscevo, che si chiama Balduga, perché non conosco poetesse. Che devo fare? Non conosco poetesse. Ho cominciato ad apprendere qualcosa di questa Balduga. Oggi dice, a proposito di Tariq Ramadan, sai chi è Tariq Ramadan? Qui come vogliamo no, alti, il capo vogliamo delle... come no, no, accusato di stupro, come storia sai? Vecchia quella. Quale donna entra nella camera da letto di un uomo? Si potrebbe allargare a qualsiasi persona. Quale donna entra nella camera da letto di un uomo per consigli spirituali? Io ci sono entrata soltanto quando non mi dispiaceva l'idea di scoparci. difendo lui e tutti quelli accusati dal Me Too. Ma per carità. Ma per Ramadan mi sembra che ci sia stato un atteggiamento. Cioè, lei difende tutti quelli accusati dal Me Too, che gli fa le fa schifo. Il Me Too mi fa schifo. Ci dovrebbe essere una prescrizione anche per le molestie. Come si fa a denunciare dopo 30 anni uno che ti ha toccato il culo e l'altro che ti ha toccato una tetta? Ma scusi, a lei non è mai capitato niente del genere, mai. Sono sempre stata io ad assaltarli. Tutt'al più sono gli uomini che possono accusarmi di violenza. Sono contro queste cose di genere, perché di generi ormai ce n'è un'infinità. Beh, ragazzi, comunque il problema di Tariq Ramadan è che fondò i Fratelli Musulmani. Vabbè, se non tanto. Adesso lascia perdere. Ho qui davanti a me. Vuoi che ti cito un passaggio di una poesia di questa signora? No. Di questa signora? No. No. Togli la cinta, apri, annusa. Ma no che non ti strangolo, bambina, tiralo fuori e annusa. Mamma. Anche le palle, sì, brava bambina, adesso lecca, bagna, brava, però, così, come una bene. Cagna. Però, è una delle più grandi poetesse italiane. Sì, avrebbe potuto scriverla Cruciani, una poesia del genere. No, non sono capace, annusa, non sarei capace. E poi la ragazza sviene, perché evidentemente questo è vero. Esatto, esatto. Ho qui davanti a me, ragazzi, Parenzo mi può guardare in webcam, probabilmente anche... Me l'hanno chiusa per spending review qui, quindi non vedo niente, tutto chiuso. Ti vedo. Allora, io ho davanti a me la cera con il pelo, proveniente da depilazione. Sarà la prima opera esposta tra qualche settimana a Rovereto. Eccolo qua, ragazzi. Ma che colore è quel pelo? Pelo è nero. Ah, pelo nero. Sì, la cera sa di vaniglia, meraviglioso. Eccolo qua. Chi ha la webcam lo può guardare. Che roba da malati, proprio. No, ma è straordinario il pelo sopra. Il pelo proveniente da depilazione, non da laser, naturalmente, che è una cosa diversa. Da depilazione. Per forza. La depilazione è una grande opera d'arte, non trovate che è una grande opera d'arte? Io la trovo una grandissima. Donato da Bari stava parlando di gay, dimmi. Quasi quasi te ne mando una con i miei baffi. Ma lo sai che delle persone mi hanno veramente. Mi stanno cominciando già a mandare della roba. Monterosa 91, 20, 149 a Milano. Mandate la vostra ceretta all'attenzione di Giuseppe Cruciani oppure Sebastiano Barisoli. Oppure di Sebastiano Barisoli. Assolutamente. Pelli criminale. Di figa provenienti da ceretta. Mi raccomando, criminale. Io figa. Mamma sì, per di figa, assolutamente. Sì, solo figa. Io ogni anno dico cosa si potrà fare di più. Ed effettivamente non ci credi, cioè l'anno prima dice beh, oltre questo non si potrà andare. No, ora è arrivato a farsi mandare i peli alla radio della Confindustria. Giustamente Vittorio Sgarbi mi segnala che sta ascoltando. Grande Valduga, vedova di Giovanni Raboni, traduttore di Proust. Vedi che siamo altissimi qua. Grande siamo altissimi. Vittorio. Altra poesia grande della Valduga, Vittorio, te la segnalo, tanto la conoscerai. Stringo il culo a ogni colpo e apro la fica intorno alle sue dita, ma sento male, meglio che lo dica. Dica che esci munita. Che mi ha rimescolata in tale modo che non so dire più se soffro o godo. Beh, è straordinario. Ma la prima mi piace di più. Togli la cinta, apri, annusa. Ma no che non ti strangolo, bambina. Tiralo fuori, annusa, anche le palle. Sì, brava, bambina. Adesso lecca, bagna, brava, così, come una cagna. Ragazzi, questa qua è poesia. Beh, non è volgarità, annusa, è poesia. Annusa, non è taleggio, disse Cruciani. Allora, Donato da Bari, vai. Vai, Donato. Posso? Che stavi dicendo? Sì. Sei d'accordo con Grillo Palermitano sui troppi froci in TV? Ormai è un modello, ormai non si vede nient'altro, ma io non ce l'ho con loro, perché non sono, almeno non lo ero omofobo, però mi stanno facendo diventare. Ce l'ho con gente come Barbara D'Urso, che ormai conducono programmi che è fatto solo di quello. Vogliamo parlare di Signorini che fa un altro programma? Mi aggiunge qualcosa Sgarbi, la migliore poetessa italiana, formidabile. È così la realtà. E poi parla delle stesse cose che parliamo noi, di cui parliamo noi. Lei ne parla in modo diverso. No, del tuo, no, in molto modo peggio. Lirico, molto in modo peggio. Lirico, lei, guarda, oggi ha confessato in questa intervista a Rolling Stone, ha confessato anche una cosa, che lei cerca un uomo e ha addirittura messo una specie di annuncio in un'edicola in piazza Oberdan, credo a Milano, con il suo numero di telefono e con la foto. Siccome ha più di 70 anni, però. Qual è? Come che rarità? Ma Donato, ma che cosa ti immagini? Che un mondo di froci? Ma tu sei frocio dentro? Non ma sono giusto... frocio. Sì, sei, tutti noi siamo froci. Una donna che cerca un uomo, cazzo. Ma tutti almeno, noi siamo. Ma tutti no, noi tu siamo un po' omosessuali. Sì, anche no. tu segretamente ma lo no, vuoi in culo. No. Tu segretamente lo vuoi in quel posto. Ma è sicuro. Segretamente né esplicitamente. Quello sicuramente tu lo vuoi, visto che hai messo anche sulla copertina il tuo culo. È un invito a tutti, no? No, non è un invito, non c'entra niente. È un invito. Non c'entra nulla, non è un invito. Ciao. Stai facendo vedere la casa agli altri. Andrea da Siena, vai, Andrea da Siena. Stai facendo vedere la casa agli altri. Anzi no, Federico dalla provincia di Pisa prima. Federico, provincia di Pisa, vai. Buonasera. Buonasera. Pronto? Dimmi. Oggi, per esempio, la follia del sessismo, no? Delle accuse di sessismo. Allora, pensate un po', oggi l'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga, ha fatto un post su Instagram, poi l'ha cancellato, non capisco perché l'abbia cancellato questa follia, in cui ha detto una cosa che chiaramente non intendeva quello che poi è stato interpretato da tutti come una cosa di sessismo, eccetera. Parlava del suo rapporto che si conclude con la sua attuale compagna, moglie, non so che cosa, uno capita. Vuole parlare, cioè capita. E a un certo punto in un passaggio scrive: la libertà che le ho sempre dato si è in qualche modo rivoltata contro di noi. In che senso? Ora ragazzi, la frase sotto accusa da parte dei moralisti di questo cazzo è questa qua. Cioè, se la teneva guinzaglio, la libertà che le ho sempre dato, ma che è chiaro che non è uno cioè che teneva al guinzaglio la moglie, è semplicemente voleva dire. Beh, però non è una frase così felice. Ma chi se ne frega? Ma che vuol dire? Ma non è che può essere accusato di sessismo dalle moraliste di turno? È un calciatore, ma lascia perdere che è un calciatore, che c'entra? Ma che c'hai contro i calciatori? Che c'entra? Perché è già un miracolo. Perché è una delle categorie più ignoranti che ci siano in Italia. Ma non dire cazzate, ma sono più intelligenti di te alcuni. Alcuni sono molto più intelligenti di te. Non dire cazzate. Come alcuni giornalisti sono delle bestie, peggio dei calciatori. Non dire puttanate. La grande maggioranza non sa neanche. Ma non è vero, ma sono puttanate. Comunque ha detto la libertà che le ho sentito parlare Cassano. Cassano è un genio. Ma tu stai scherzando? Ma Cassano è un genio. Ma come no? Ma ti piscia in testa Cassano? Ma stai scherzando? Cassano è letterato. Ma Cassano è grammaticalmente una bestia, dai. Ma tu sei completamente pazzo. Ma ti assicuro che ti metti i piedi in testa e ti fa un culo così dialetticamente. Beh, magari sì, ha altre capacità, Cassano. No. Grammaticalmente. Come posso dire, ragazzi? Cassano è uno che non sa mettere quattro parole. La frase sotto accusa di Zenga è questa: la libertà che le ho sempre dato. È chiaro che non intendeva che lui comanda e dà la libertà alla donna. Voleva dire ci siamo concessi delle libertà, la libertà di fare il cazzo che vuole. Non è che le ho dato, non è una concessione. È chiaro che non voleva intendere questo. Ma ragazzi, ma di che parliamo? Ormai dai. In Italia, se sei un uomo non puoi più dire un cazzo. Non puoi dire un cazzo. Qualsiasi cosa non puoi tu dica viene usata contro di te. Viene usata contro di te. Dai, Federico, dimmi. Allora, io volevo parlare del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sì, che ancora non è attivo, eccetera, cioè non è ancora operativo. Esattamente. E non solo, poi dell'obbligo delle mascherine nei luoghi. Puttanata, pazzi, sono sgarbiano su questo, una puttanata inaudita che non sarà applicata se non per incassare qualche soldo. Bisognerebbe fare una ribellione contro le multe, poi dipende naturalmente, ma se uno va da solo, se uno è da solo in mezzo alla strada, non mi devono rompere i coglioni, è chiaro? Non è che se non indosso la mascherina mi devono fare la multa, non rompessero i coglioni. Poi se sei con un convivente lo puoi fare, puoi andare senza, ma che roba è? Ma che ne sai se è convivente o no? Se sto con una mia fidanzata o con un fidanzato, poi che ne sanno? Se viviamo insieme o no, ma che roba è? Ma sono ridicoli. C'è tutta questa emergenza di cui parlano, si riduce a questa cosa sulle mascherine? Dai, su, è ridicolo. Ciao, amico mio. Ciao. Chiedo scusa un momento, chiedo scusa. Pubblicità. La Zanzara. Una che si ribella a questa follia delle mascherine, si ribella anche ad altre cose. Daniela Martani, eccoci qui. Ciao Daniela. Eccomi, ciao Giuseppe, ciao a tutti. Allora, buonasera. Ragazzi, dovete sapere, caro Parenzo, caro Gottardo, che il Conte ha detto da poco che addirittura le mascherine vanno indossate dentro casa. Dentro ma casa, pazzo. Cioè vanno indossate, pazzo. Andrebbero indossate anche dentro casa, ovviamente non è un obbligo, ma andrebbero indossate anche dentro casa. Che dici tu, Daniele? Che è un pazzo, un criminale? No, vabbè, io sono scioccata. Allora, è chiaro ed evidente ormai che sì, qui se ospiti piano... amici, se ospiti amici, dice lui, è ovvio, dimmi. No, è chiaro ed evidente ormai che ovviamente c'è questo piano economico per far arricchire alcuni imprenditori, in questo caso parliamo di Elkan, mamma mia. Cioè, sono andato a fare la pipì, non sapevo che ci fosse la squinternata, sono tornato e sento questa squinternata che urla. Tua moglie, che ma perché urli? Tra l'altro tua moglie sta lamentando parlando del fatto che tuo figlio sta male, tua figlia non so chi sta male, e dice deve stare lei a casa piuttosto che te, ma te ne vai al fondo a questo però, e tua moglie invece sta a casa, questo, capito, a guardare la figlia. Ma questo però è interessante come cosa. Dove l'hai letto? Io non lo sapevo nemmeno. È vero, però devi leggere i tweet della moglie che sta lamentata del fatto che lei deve stare a casa perché la figlia sta... E pensi che stronzo Parenzo che va a lavorare, pensa che stronzo. È perché, scusa, la moglie non lavora, non ho capito, no? Cioè, perché deve stare lei a casa a guardare la figlia? Sì, maternità, ho capito. Senti, squinternata, è retribuita, per cui sta a casa, no? Sentite come funziona questa radio. Sentite come funziona questa radio. Senti, non lo so. Che cos'è? Il mio microfono. Cioè, aspetta, questo è come funziona questa radio, ragazzi. No, ci faccio sentire. No, sono io, mi segnalano la regia che sono io. Adesso funziona. Che è successo? I microfoni della radio del Sole 24 Ore, così funzionano. E poi rompono il cazzo a me perché faccio vedere un culo. Capito? I microfoni in diretta alle 19:50 funzionano così, che a un certo punto fanno. Com'è che faceva? Perché non lo fa più? Anche divertente. Roba incredibile. No, è il funzionamento di questo minchia di microfono. Hai capito la follia? Le flatulenze della signora. Infatti. No, le flatulenze, no, quella non scorreggia. Le flatulenze due, caro. Quella non scorreggia, quella non scorreggia. Martani, e poi le vegane, di solito scorreggiano bene, o sbaglio? Molto di più. Non ti capita mai di scoraggiare, non ho capito. Sempre, Daniele, cioè. ma sì, ma sono umana, chi è che non lo fa? Scusami, Ma e dov'è che scorreggi? No, attenzione, le annusi tu, Martani. Interessante questa cosa, interessante. Non le annuso, ma mi fa schifo comunque. Ma non sai che cos'è il forno olandese? Sai che cos'è il forno olandese tu? Non sai che Ruffini, il signor Ruffini. No, non sai ma che cos'è il forno olandese? Il forno olandese dovresti chiedere a Paolo Ruffini. Allora, praticamente il forno olandese, per chi non lo sapesse, abbiamo parlato più volte qui alla Zanzara, però lo faccio presente anche alla signora Martani. Praticamente tu scorreggi sotto le coperte, invece di, come dire, allontanarti, oppure perché ti sarà capitato anche a te di scorreggiare sotto le coperte, no? Immagino, tu praticamente copri tutto e dunque si crea dentro una specie di forno olandese, certo. E senti questo profumo incredibile della tua scorreggia sotto la coperta, una cosa meravigliosa. Ma che è che schifo, è la realtà. Tu per esempio con un uomo non scorreggeresti insieme sotto le coperte? Straordinario. Ma non lo scorreggerei insieme sotto le coperte. Ma che domande fai, Cruciani? Scusami, ma che pericolo. È questa roba? Ma è meraviglioso. Ma assolutamente, ma che schifo. Ma mi scade proprio uno che mi scorreggia nelle... C'è uno che ti scorreggia sotto le coperte, sì, ma che schifo. Lo manderesti via. Su questo c'ha ragione la squinternata. Ma certo che lo mando via. Ma che stai dicendo? Va bene, ma che schifo. Ma ti prego, queste cose si fanno in bagno, non si fanno. Tu scorreggi solo in bagno. Ma uno tenta di, cioè, se te la riesce a tenere, ma che cosa dobbiamo parlare di sta roba qui? Non ho capito. Adesso c'è stata una piccola digressione. Di cosa vuoi parlare? Di legge elettorale? Ma, no, se te la riesci questo. A tenere, te la vai in bagno, corri in bagno, che fai? La scarichi davanti a tutti. Ogni tanto è divertente, però sentire l'imbarazzo delle persone, soprattutto quelle silenziose, l'imbarazzo delle persone intorno. C'è qualcosa e tu ti guardi intorno, fai anche finta, che schifo, e in realtà sei tu, straordinario, meraviglioso, l'ho fatto più volte. Sentire quell'odore lì con le persone che si girano, le migliori, se mi permetti, sono in ascensore. In ascensore è il luogo del professionista. L'ascensore. Comunque torniamo alla questione sollevata dalla signora Martani. Secondo te dietro le mascherine c'è un grande business in realtà, cioè non servono a un cazzo, secondo te? Sono previste 11 milioni a scuola, ok? Ogni giorno ne producono 27 milioni gli Alcan, gli altri 16 secondo voi dove avrebbero dovuto metterle? È chiaro che hanno fatto un decreto per obbligare le persone a indossare la mascherina quando non servono a un cazzo. Capisci? Tra l'altro, no, voglio dire questo, ti ricordi quando c'erano i video in cui ti spiegavano dove dovevi mettere la mascherina, non dovevi assolutamente toccarla una volta che te l'hai rimessa? Allora oggi abbiamo visto il filmato di Zingaretti che cercava la mascherina, non sapeva dove era finita, non so se l'avete visto anche voi. Sarà stata contaminata sul mio Twitter o sul mio Instagram e l'ho pubblicato, dove a un certo punto vedete che sta per terra, la prende, la tocca, quindi non dovrebbe toccarla, e se la mette in faccia, la mascherina sporca zozza che dove ci hanno camminato le persone, lui prende e se la mette in faccia. Allora voglio sapere, adesso dovete chiamare un virologo con le palle che deve dire che le mascherine usate così non servono assolutamente. Quello certo, ma capito? Perché allora non mi puoi fare i filmati a marzo in cui mi dici che non andava toccata che andava buttata ogni quattro ore. Su, ragazzi. Non la potevi mettere in tasca, non devi usare i guanti per uscire, altrimenti ti infettavi. E adesso invece la mascherina sta puntualmente. Adesso Parenzo, tu dimmi dove cazzo metti la mascherina. Dove la metti quando te la levi? Ma io me la cambio. Forse che non dovessi proprio neanche levarla. Io la metto, cioè, io la metto, e come? Poi quando me la levo, la butto e ne metto un'altra nuova. Ah, e ho lo zaino pieno di mascherine. Ma certo. Che butti, ma che cazzo stai dicendo? Certo. Ma chi ti crede? Ma ti ho visto usare. Che ne so, respirare un secondo cosa, ma sì, quando sono per strada, certo, quando sono nell'autobus no, quando porto il mio figlio a scuola in autobus no. E lo quindi sai che non lo puoi toccare? Non lo puoi toccare perché il virus si attacca anche sulle mani, quindi appena ma tu tocchi la mascherina l'hai alla infettata tua, no, alla tua che... testa, alla no, tua ma testa moscia. Ma guarda che ci sono i video, ma guarda io Ricciardi ma che dice di le mascherine ma cosa non parli nulla, di Ricciardi, il virus entra attraverso la garza, non sai neanche chi è Ricciardi squinternata che non sei altra. Scusami, non ho capito una cosa, tu ti ribellerai a questa cosa qua, cioè ti farai multare. Ma non certo, io non vado in giro con la mascherina, non ci sono andata durante il lockdown, durante a marzo quando sono le morti i migliaia di morti che sono morti, e ti pare che me la metto adesso? Ma sono morti o non sono morti poi? Perché per te non sono morti, questo è il punto. Cioè, la notizia di oggi è che una signora che è cascata dalle scale, un signore adesso mi ricordo, l'hanno messa, è risultata positiva al tampone, l'hanno messa tra i morti di Covid nel Friuli, l'avete letta? Sì, più volte succede questa cosa qua, più volte svista, allora quindi capitare, secondo me vanno riconteggiati i propri morti, perché qua non sono morte 35.000 persone, no, secondo niente. Me qua sono morte 2-3.000 persone, e gli altri sono morti, così. Morti tutti di altre cose. E nel resto del mondo, e in Francia, che succede in Francia invece? In Spagna, in America? Ma sei una povera squinternata, sei una mezza matta, cialtrona e gattara, rispondi, allora, la Spagna ha obbligato la popolazione a indossare la mascherina all'aperto da luglio. Okay. Aumento dei contagi. Ieri c'erano 12.000 casi. Dimmi a cosa cazzo serve la mascherina. Secondo te sono tutti scemi nel mondo, allora? Secondo te sono tutti scemi nel mondo. Arriva la gattara cialtrona. Arriva la gattara che veste con la plastica e non ha neanche Senti, le scarpe in pelle. Guarda che fino adesso io ci ho avuto ragione, perché non mi sono presa niente. Sono stata in 200.000 assembramenti. Non ho mai indossato la mascherina. Cioè tu continuerai ad andare a feste private con 50, 100 persone, eccetera, alla grande. Guarda, sono stata proprio sabato la festa, ma privata, quali feste, che quante persone, nessuno, quante persone, non invita nessuno, ma al minimo una quarantina di persone eravamo, quindi no, guarda, a me sta cosa non mi convince, è inutile, allora ragazzi però è rimasta sconvolta, mi sa, la Martina della mia intervista sul quotidiano sconvolta, libero Giuseppe, sul Giuseppe, quotidiano è libero sconvolta perché è andata a una festa con 40 persone è andata a una festa con 40 persone e è tornata a casa da sola come al solito, per ma no che perché vuole tornare da sola, oggi c'è gente che trova per scopà volendo, non è quello il punto, dai caro Gottardo, vabbè. L'altra volta la signora Flavia Vento ha detto che siccome a me piacciono le orge, io sono dietro c'è il demonio, e siccome ho detto che farei un'esperienza con una trans, addirittura ci vuole l'esorcista. Ora io dico, vabbè, ma che senti, c'è? Cruciani, allora tu devi capire una cosa: il tuo modo di parlare, di intendere il sesso a una donna, diciamo normale, sì, insomma, che ha dei valori, ha dei sentimenti, eccetera, fa veramente schifo. Sì, te lo dico, cioè, io non ti toccherei manco con la punta del mio dito, capisci? A letto con te, manco se me paghi. Però posso dire una cosa: abbiamo pagato. Abbiamo siamo andati con persone più brutte anche pagando. Siamo andati con persone più brutte anche pagando. Però posso dire una cosa: ma qual è il problema? Il problema è che se uno va a letto con la Martani, si ritrova la colonia di Tani. Poi che mi fa piacere essere chiamata Troia. No, ma il dramma è un altro. Ma che perché se uno non va ti dovrebbe far piacere essere chiamata Troia? Ma è meraviglioso come complimento. Ma perché mi devi chiamare Troia? Ma se io mentre ti scopo ti dico bella Troia, scopo come una Troia, qual è il problema? Ma mi piacerebbe che mi dicessi ti amo, sei la donna della mia vita, oppure mentre scopo, se uno dice ti amo mi si ammoscia il cazzo, scusa, dopo un secondo, fermi tutti, fermo, resta lì, fermo. Ma che disastro di trasmissione. La Zanzara. Vorrei porre un quesito che mi chiedo da ormai anni. Come mai dopo la penetrazione la vagina ha quel sapore tremendamente aspro e salato? Che voglia di cazzo, mamma mia! Comunque ragazzi, siamo al ridicolo. I giornali online cominciano a pubblicare il vademecum, tutte le regole per evitare la multa fino a 1.000 euro. Ma vi rendete conto in che situazione ridicola siamo? Questi qua sono in procinto di varare, se non l'hanno già varato, un provvedimento che multa le persone che non indossano, certo, la mascherina, certo, all'aperto, certo, all'aperto, non dentro, bisogna, un locale, all'aperto, dove non succede una sega. Ma che la c'entra il distanziamento? È molto, molto, molto. Ma se è grave, non basta. Allora, che cosa c'entra la questione molto delle mascherine? Virologi. Dai, i su. Virologi come Crisanti dicono che è una puttanata. Dai, lo dicono, esatto, i virologi. Lo dicono i virologi. Sono, dai. Sono diventati più virologi dei virologi. Poi l'altro terrorismo. Oggi 3.678 nuovi casi, mai così tanti dal 16 aprile. È una puttanata. Ma quanti in ospedale? Ci sono quanti milioni di persone. In ospedale? Ce ne sono 300-350 in terapia intensiva. Un cazzo. Davanti a milioni di contagiati. Ce ne sono milioni di contagiati in Italia. Probabilmente c'era pure Parenzo nel buco del culo il coronavirus. No, beh, speriamo di no. Adesso. Dai, adesso. Su. Allora, però, riprendendo il discorso con Daniela, non posso non chiedere alla signora Daniela Martani cosa ne pensa della spermidina, argomento da noi toccato ieri sera. Oh mamma. Allora, mia. No, ieri la signora professoressa, nostra amica dietologa Samantha Biale, ci ha rivelato questa cosa abbastanza clamorosa, che io non sapevo, dunque magari è ovvia per molte persone, che lo sperma, l'ingoio dello sperma, anche sotto forma, come dire, di prodotti alimentari, dà dei vantaggi al cervello. Ora, voglio dire, la domanda è molto semplice, secca. Lei, non frequentando maschi, evidentemente non ingoia. Dunque il cervello non è alimentato da questa cosa, non potrebbe farsi vedere. Quello si vede, quello allora, si vede. È una pratica che lei usa quando si trova a tu per tu con un maschio, l'ultima volta fu un annetto fa, da quello che ci ha detto, oppure ingoiare non è nelle sue preferenze, come dire? Senti, allora, io queste informazioni non le do pubblicamente, sono affari miei, di quello che faccio, sì, con, vabbè, le persone, sì, ok, gli uomini. Però non è una pratica che ami, diciamo la verità, non è una pratica. No, non è una pratica che amo in particolare, ecco, però infatti, comunque, siccome quella molecola lì si trova anche negli alimenti, preferisco ad assumerla attraverso gli alimenti, perché non ho capito, cioè, comunque non ma cos'è che ti... dire, ma io sono riservata, non dico i cacci miei. Lei è riservata, ma questo, ma riservata adesso, lei non è riservata, la Martani è riservata. Ma riservata no, dai, su. Io riservata. Sono riservata, perché tu hai mai saputo con chi sono stata? Ma non me ne frega niente, ma non gliene frega niente a nessuno, ma nessuno si fidanzerebbe mai con te, perché si trova lo zoo a letto, quello è il tema vero. Tu hai uno zoo nel letto, in casa, quello è il dramma. Io voglio capire vero. Una cosa, è una delle poche persone in Italia che non è assolutamente preoccupata, non è terrorizzata, per esempio, da questa cosa qui dei nuovi casi, eccetera. Fa perché male. Pensi che ci sia un'operazione terroristica dietro? Ma perché... Io non ho capito, scusami, ma secondo te, no? Dopo che quello che abbiamo passato a marzo-aprile, ok? Allora, là si voleva ipotizzare che ci fosse veramente il picco del coronavirus, come ogni anno l'influenza stagionale. Secondo te sono terrorizzata adesso? Cioè, io che sono andata nei posti dove ci sono stati più positivi in assoluto, quindi in Sardegna, ho abbracciato e baciato persone, baciato sulla guancia persone risultate positive una volta tornate, asintomatiche, quindi non avevano niente. Conosco persone che sono state male ma hanno avuto un po' di febbre, un po' di tosse, sono guarite. Secondo te io mi faccio spaventare da sta roba qua? Non me ne può fregare di meno. Scusa, io non ci credo a questo, ma non che non credo al virus, credo che il virus ci sia, ma che sia un virus influenzale, tant'è che infatti si chiama coronavirus. Okay. Senti, ma voglio capire una cosa, ma tu, tra l'altro non muoiono manco più gli anziani, perché Trump è guarito, Berlusconi è guarito, scusami, è guarito. Daniele, però voglio capire, a proposito di baci, ma tu un bacio sulla lingua di quelli proprio avvolgenti, eccetera, con uno che mangia carne, te lo faresti una stinguata di quelle serie, di quelle potenti, cioè un limone, serie, ho capito, però lì è... Mi deve piacere tantissimo. Essere... Cioè, però alla fine lì, se ti piace tantissimo, diciamo che questo tabù può anche rompersi. Cioè, se uno ti piace tantissimo e ha mangiato la carne 2 secondi prima, che fai? Non lo stingui? Non ci fai una limonata? Beh, tu lo dovresti sapere. No, io non lo so da che. Io non, che so, senso, io, no, io non lo so, perché non è. Cioè, non è non un so coming out qualche, questo. Ma questo perché qualche confidenza a te te l'ho fatta, no? Sì, quindi sì, tu lo vero. Sai. No, no, vabbè, dovresti sapere, perché me l'ha confessato. È vero, ha limonato con uno che mangia la carne, sì. Ha limonato anche con gente che mangia la carne. È capitato, però ti dico la verità. Poi, però, se lui, quella persona, insomma, non vira, dove sto io, caro, non c'è scopo, non ci puoi scopare. Al limite il limone lo fai. Senti, vuoi fare gli auguri a Ferragni Fedez per il secondo figlio? Non me ne può fregare di meno, cioè fai gli auguri, però non ai tuoi nemici, non mi far parlare, perché oggi c'è stata, fra l'altro, la terza udienza. Che ti hanno fatto, scusa? No, cioè, sono in causa, sono in causa, penale. Sono in causa. No, nel penale, allora loro mi hanno denunciato, è stata rinviata, è stata che... Vabbè, non entriamo in queste cose, dai, non entriamo, no, sennò... aspetta, perché loro hanno fatto opposizione due volte. E vabbè, e quello, oggi, se uno va in prova... Domani c'è la terza opposizione, ok? Ma fai gli auguri, vediamo... fai gli auguri per l'annuncio che è femmina il secondo figlio, non è nato. fai gli auguri. Beh, una bella cosa, però. Sono personaggi che non considero proprio. Comunque, viva le orge, ragazzi miei. Le orge e lo scambismo salvano i rapporti. Salvano ma i rapporti. Chi l'ha detto? Ma che stai a dire? Ma perché dici così? Scusami, ma tu fai questo? Vai a farti fare le orge? Ogni fai, tanto fai l'ho fatte le orge. Sì, purtroppo. Le orge l'ho fatte, lo scambismo sì. Lo pratichi? L'ho fatto. Sai che c'hai? Sai qual è il problema tuo, Cruciani? Che te chiacchieri, ma tu fai alla fine non fai un cazzo. Cioè, questa è la verità. Con una fidanzata che io conosco, che è tanto carina, è tanto dolce, è tanto simpatica, è il contrario di quello che ciao, c'è. Ciao. Però ride sempre, Andrea da Siena, vai. Andrea da Siena, dimmi. Finisce male qua, te lo dico io. Ma finisce tutto male, finisce tutto a schizzi in faccia, te lo dico io. Ma nel senso di schizzi di fango di come ognuno di noi. Di Rocco? Come nei film di Rocco? No, intendevo altri schizzi. Schizzi di fango, intendevo. Andrea da Siena, si spermidino. Un ricatto dietro l'altro, tutti noi tre, tutti ricattati. Un disastro. Andrea da Siena. Revenge porn. Come si fa? Andrea da Siena. Sentite? Pronto? Il più pulito c'ha la rogna, dici, il più pulito c'ha la rogna. Non mi fare parlare di te, Davide. Non Andrea mi far da parlare, Siena. Non mi far parlare, io, Andrea. Io ho un dossier che affonda dai tempi del liceo. Andrea io so andava a nuotare nudo di notte. Zitto, Andrea da Siena. Pronto, Gottardo, zitto. Dimmi. Allora, volevo raccontare l'esperienza successa ieri a mia ragazza. Che è successo? Allora, bravo, gentile a fare il radio, complimenti. Sì. Ah, ma lei lo sa, lei è consapevole. No, poi ti piacerà. Allora, si era candidata per una festa di lavoro, come babysitter. Sì, però amico mio, sei collegato male, dai Andrea, su, non no, so. No, si sente strano, non ti staccare con la voce, dai, non ti staccare con la bocca, dai. Allora, si era fu breve, insomma. Si era candidata come per fare la babysitter, allora? Sì, la presunta datrice di lavoro l'ha chiesto di contattarla su Instagram. Perché non l'ha contattata su Instagram, hanno fatto una domanda per vedere come era lei. E a un certo punto, dopo la cura personale, gli ha detto: ma sei fidanzata? È lì tuo fidanzato? Io per l'appunto ero lì, quindi sono giunto la videochiamata. Cioè, ma alla fine non era una datrice di lavoro, era uno che ci voleva provare. Vabbè, ma niente di strano. No, qual è una donna era, donna, cioè... che mi ha chiesto personalmente. Si può fare una volta a settimana, una cosa a tre, io e te e la tua ragazza? Ah, così? Cioè, ha preso da un annuncio. Vabbè, sembra normalissimo, certo. Cioè, però mica t'ha forzato. Ma è normalissimo. Mica t'ha forzato. Ha chiesto: volete fare una cosa a tre? Ha risposto un annuncio su... ho capito, ha risposto un annuncio di lavoro e ha detto: beh, insomma, a me non me ne frega niente, ma non è che sei disponibile a fare una cosa a tre, ma non è che ti ha sparato in testa, cioè non è che ha preso una pistola bene, e ti ha sparato. Ma io cercavo lavoro, lavoro e niente, invece è capitato. Mi con sembra una... bella questa denuncia che hai fatto, mi sembra un ambientino incredibile. Io sarei andato, forse mi sarei io mandato a cagare. Ma che cagare, dovevi accertarti com'era, come non era, e poi eventualmente facevi una cosa a tre, mi dico triso. Su Instagram vedi anche che fatto ha. Esatto, Era un fake. Cioè, le foto erano fake. Certo. Va bene, Matteo da Venezia, vai. Buonasera. Volevo intervenire riguardo a tutti i commenti che avete fatto sull'utilizzo delle mascherine, senza entrare nel merito di ogni opinione che è rispettabilissima. Non stiamo parlando di opinioni, stiamo parlando di dati di fatto. Sulle mascherine, sull'utilità delle mascherine, quali mascherine, come mettere, dove metterle. Questi scienziati hanno 45 idee diverse da marzo in poi. Ma non ho detto che non servono io. No, io non ho detto che non servono, tanto che me la metto. Dimmi, che medico di che poi? Che sei? Medico di cosa? Come di che? Ma medico di che? Che cazzo vuol dire medico? Come cosa vuol dire? Quella persona che se lei è con la merda fino al collo. Ma di cosa? Ma medico di cura, che? Che tipo? Che tipo di medico sei? Che tipo di medico sei? Medico di continuità assistenziale, quello che risponde alla notte, risponde ai weekend. No, ma sei un medico condotto, okay, di quelli che una volta mi hanno chiamato medici, un medico di base, una cosa di questo tipo. La guardia medica. La guardia medica. Che cazzo ne sai di mascherine? Una persona fondamentale che ha studiato. Non può parlare di quello che non conosce. Ha studiato 8 anni all'università. Ma non sa un cazzo questo. Ha studiato per 8 anni. Va bene, quando avrà il COVID tornerà da noi. Dimmi. Non c'è problema. È un medico che mi auguri pure il COVID, mortacci. No, non glielo auguro. Le auguro di tornare da noi. Ma vale, dimmi che hai da dire, dimmi, forza, che hai da dire, questo da dire. Ho da dire che non stiamo parlando di opinioni, io penso bravo, che è evidente che due persone a contatto, due persone a contatto, tiene una decisione, quella è, poi i prossimi anni mi daranno ragione, mi daranno torto. Ma io su che cosa? Ma stiamo parlando dell'obbligo del stiamo parlando di una cosa specifica, non in generale dell'uso della mascherina dentro la cura. Allora, stiamo parlando dell'uso della mascherina all'aperto, anche quando cammini da solo. Qui sinceramente, la mia opinione personale e per quello che è il mio ruolo, ok, come medico, posso dire che le do ragione sul fatto che sia opinabile, assolutamente opinabile. Ma di questo stiamo parlando, allora non mi rompere i coglioni sul resto. Da questo a demonizzare tutti quanti gli interventi fatti. Ma anche questo, posso dirti, Matteo, ma c'è... Io penso che lei non lo può fare, io lo posso fare, lei no. A parte che tu lo puoi fare perché sei un medico di base, io no, il cazzo, io posso dire quello che mi pare. Va bene, allora, faccia così, studi gli anni necessari, ma studi cosa? Ma cosa? Ma che vuoi? Un mondo dove parlano solo i medici? Un mondo dove parlano solo i medici? Quando si ha cognizione di fatto, non si parla per opinione. Con sta cazzata, ciao. Non è una cazzata, ma per carità, ciao. La Zanzara. Ah, Cruciani, dici tanto, non portiamo la mascherina, provvedimenti liberali, però te intanto sei un privilegiato e ti fai il tampone tutti i giorni. La gente normale non ha possibilità di fare questa cosa, Ah, fai tanto il coglioncino, il super il facilone, ma vaffanculo, va. Tutto il mondo ci sta mettendo le mascherine, arrivate te e Meluffi a spiegare al mondo che non servono le mascherine. Cruciani, vergognet ben, va la fecagert. Oh, Crugio, a sentirti parlare di Covid mi sembra che tu abbia un ritardo cognitivo, Cioè, è da marzo che siamo dentro sta pandemia e tu ancora sei lì che dici, testato positivo ma non ha un cazzo e quindi può uscire. Ma porca puttana, ma tutta la questione degli asintomatici. Cruciani, non capisci un cazzo. Ma tu non è che non capisci un cazzo, tu vuoi non capire un cazzo, quindi è peggio. Sei un coglione, tipo Melussi, tutti quegli altri sfigati che ci sono su Rete 4 e lì e tutti quegli altri programmi del cazzo che ci sono su Mediaset. Sei un coglione. 19 fottutissimi euro per il tuo cazzo di libro. Eh sì, Crucio, devi andare a fare in culo, va. Mentre per chi ha la partita IVA, come lo sai, hanno regalato 600 euro. Per i lavoratori autonomi hanno regalato 1000 euro. Per protesta, le prostitute non hanno fatto nulla. Giusto. Ha ragione la signora Efeball. Il governo per le prostitute non ha fatto un cazzo. Non ha fatto nulla. Non mi pare un problema. Provvedimenti ad hoc per questo settore. Non è un lavoro ad hoc, riconosciuto. Come fai a provvedere? Damiano da Ferrara, poi ci colleghiamo con te, se riusciamo a trovarlo, mi ha detto che era sul treno. Con Cipollino, il mitico Massimo Boldi, che mi sa che anche lui si annovera tra i negazionisti. Massimo Boldi e il virus. Damiano, dimmi. Ciao Giuseppe, niente, volevo portare la mia testimonianza in quanto io sono un raro esemplare di estetista. Sono diplomato e lavoro circa dal 2001 e quindi sentivo che il tema della tricofilia, insomma del pelo femminile, è arrivato addirittura. Sì, cosa ci vuoi dire tu? Cioè, tu fai le cerette? Esatto, io le faccio, sì. Ogni giorno? Dal 2001, sì. Adesso sono più portato verso i massaggi perché sono una spa, però io ho iniziato proprio in un centro estetico. Sì. La mia fidanzata, cioè ho iniziato per caso, io ero... ma che ci vuoi dire su sta cosa? Sei diventato tricofilo? Niente. Che sei diventato? No, io lo sono sempre stato, però cioè per sei un amante del pelo? Sei un amante del pelo o della depilazione o del petto di pollo? Io diciamo, per lavoro devo andare contro i miei principi, ma cioè? Non conto sono i gusti personali, che io essendo degli anni tardi anni 70, tu capisci che quello tu evolvi la tua adolescenza con cioè a te piace il pelo, diciamo, a te piace il pelo, esatto, diciamo. Esatto, poi dopo anche perché se tu togli il pelo decade lo scopo della biancheria intima, la biancheria intima trasparente, qual è lo scopo? Far intravedere, insomma. Se tu togli tutto non c'è più contrasto. Sì, questa è una teoria anche interessante, però cioè il contrasto, la biancheria intima, quella diciamo trasparente, esalta il pelo femminile, no? Esatto, e dunque se invece una figa è rasata non c'è contrasto, non c'è contrasto, non c'è, a quel punto bisognerebbe andare direttamente così, uno va direttamente, no? Cioè, senza le mutande, al di là delle questioni igieniche ed è uguale. No, ma non è una cosa sbagliata. Il discorso è che io non posso parlare, io già mi sto esponendo parlando di questa cosa, perché? Sono gusti personali, perché quando io parlo di queste cose, che schifo una cosa di genere, ma perché, come si fa, adesso soprattutto quelle le giovani non possono concepire, probabilmente colpa di internet, concepire di tenersi il pelo, ma anche... Cioè, devono togliere tutto. Cioè, vengono da te e devono levare tutto. E devono levare tutto. Sì, ma lo so, purtroppo c'è questa nouvelle vague, ma già da un po' di tempo, cioè, di togliersi tutto. Che deve, no, credo ci sia un 10% di nostalgici che rimpiangono questa cosa qua. 10%, ore, molti ore di più. Discussione ciao, su ciao, questa cosa. Ciao, Damiano. Ciao. Chiamiamo Boldi, dai, Massimo, vai. Massimo, sono Cruciani, come stai? Oh, carissimo, bene. Massimo, volevo sapere da te, ma veramente tu pensi che le mascherine siano inutili? Bravo, è una domanda che ti facevo io. Cioè? Esattamente la stessa domanda, guarda, ce l'ho sulla mascherina. Ma in treno per forza ce l'hai la mascherina, ma in generale pensi che siano inutili? Perché ho letto che da qualche parte... No, ma io ti faccio una domanda. Dimmi. Voglio fare una domanda e voglio che tu la fai... Sì. Ai tuoi radioascoltatori. Sì, sì. Secondo voi e secondo te, sì, un fazzoletto davanti alla bocca, sì, un fazzoletto, sì, può salvare il mondo? No, un fazzoletto no, assolutamente no. Ma che c'entra? Vabbè, diciamo la mascherina, io dico il fazzoletto per sì, dire. No, e dunque dimmi perché? Perché renderlo obbligato? Non lo so, dimmi tu, cioè nel senso ci vogliono terrorizzare? Secondo me sì. Cioè chi è che vuole terrorizzare il mondo secondo te? È difficile rispondere, però probabilmente c'è qualcosa che non funziona, che non è normale. Probabilmente si vuole cambiare il sistema di come siamo abituati a vivere. Cioè credi veramente che qualcuno per esempio ci voglia mettere dei microchip, i famosi microchip sotto la pelle? Ma guarda, io credo a tutto e credo a niente, io credo solamente al fatto se voglio e ho il diritto di vivere serenamente la mia vecchiaia. Beh, nessuno te la toglie questo diritto. E dunque non voglio avere del terrorismo che mi faccia star male, non solamente a me, ma a tutta la mia famiglia, i miei figli, i miei nipoti e tutte le persone a cui voglio. Cioè, vuoi continuare a campare, questo vuoi dire, vuoi continuare a campare tranquillamente, ma non hai paura del coronavirus, Massimo? Sì, ho paura perché me l'hanno inculcato nella testa, io invece non ho paura. Io ho fatto un film, ho appena terminato il film con De Sica di Natale, sì, dove facevamo un tampone ogni 5 giorni. No, questo d'accordo, però voglio capire, cioè, tu pensi che ci stanno inculcando la paura di campare, di vivere? Ma no, è una questione di potere probabilmente. E chi è che ci guadagna secondo te? Ma che ci guadagna non c'è nessuno che ci guadagna, però che ci perde siamo tutti noi, onesti cittadini, lavoratori. E il governo come lo consideri il governo? Il governo è debole. Però voglio dire, tu hai paura, ma nello stesso tempo dici che è una paura che ti hanno messo le autorità, che mettono le autorità, cioè terrorismo in giro. Il terrorismo è prendi il coronavirus, sì, muori. Invece non è vero. Non hai paura di morire? No, io non ho paura. Però i miei nipoti, i miei figli e tutte le persone che voglio bene non possono continuare così, non possono crescere così. No, non si può vivere con il terrorismo addosso. Ma il vaccino te lo faresti? No, io no. Come no? Per, No, per adesso no. Ma com'è che, scusa Massimo, sono David Parenzo, non ho capito, ma com'è che sei diventato così scettico, negazionista? Che ti è successo, Cipollino? Cosa ti è successo? No, no, non cosa mi è successo, cos'è successo? No, cosa è successo a te? Se dici no al vaccino, non lo so, ma ragazzi, c'è una pandemia. Pandemia, bisogna mettersi la mascherina sempre e stare attenti. Io non capisco. Ma come chi? Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, chiunque lo dice, e nel mondo, in tutto il mondo c'è. Hanno detto un sacco di cazzate l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Prima hanno detto che serve, poi che non serve, eccetera, eccetera. Cioè, non è un tuo film, capito questo? Se siete convinti di questo, fate bene a sostenerlo. Io dico che sicuramente in un momento come questo di pandemia avere la mascherina è utile, sicuramente utile, ma che sia obbligatoria. C'è una dittatura, una cosa di questo tipo, non ho capito. Cioè... No, io credo che il mondo sta impazzendo. È proprio la lotta tra il buono e il cattivo. E chi è il cattivo? Non lo so. I potenti della terra, che ne so, i potenti della terra, cose di questo tipo. I potenti della terra. Io adesso voglio vedere quando sicuramente fra poco tempo verrà rieletto il presidente americano, forse cambia controllo. Cioè, se viene rieletto è un bene per tutti? Non è un bene, è un qualcosa che ci risolverà. Che ci risolverà. Vabbè, Parenzo, che vuoi dire a Cipollino nostro? No, io dico che Cipollino deve fare i film che sono meravigliosi e continuare a farli, ma non occuparsi di coronavirus, mettersi la mascherina e basta. Beh, una bella domanda, una bella. Ma perché non si può occupare? Perché non si può occupare? Si deve fare il vaccino. Ma perché non si può occupare di coronavirus? Si deve fare il vaccino perché noi ci teniamo alla sua salute e ci teniamo che lui continui a fare sì, i film. Ma il vaccino deve essere un vaccino garantito, sicuro. Vabbè, quello certo, ma quello certo, mica è quello di Putin ti devi fare, anzi devi fare quello vero, quello buono, quello vidimato, quello controllato, ma ci mancherebbe altro, certo. Ma faccio la stessa domanda a te, Parenzo. Tu sei convinto che un foglio di carta o di stoffa davanti alla bocca posso salvare il mondo? Il mondo no, però posso salvare qualche vita, certo. Il distanziamento e la mascherina possono evitare di finire all'ospedale, sì, probabilmente tu sì. Mi hai parlato con gli scienziati? Sì, certo. Molti dicono che non serve un cazzo, molti dicono che non serve un cazzo. Io ci ho parlato con degli scienziati, che non ti faccio i nomi, ma con della gente molto... E che ti ha detto? Che ti hanno detto questi scienziati? Che non serve un cazzo? Potrebbe essere utile... In un momento di pandemia come questo potrebbe, non indispensabile. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Gottardo, con quella panza che ti ritrovavi, ci credo che sia andato in clinica, perché come dice il mitico Semproni, o bici o frighe. Allora ragazzi, un po' di audio così, velocemente. Porro, scatenato contro Galli, però facciamo una premessa. Cosa ha detto Galli, signor Galli? Che è presente ovunque praticamente, il virologo Galli. Che il calcio si deve adeguare. Senti, la Lega Calcio deve solo che adeguarsi. Bisogna evitare le cose anche meno importanti. Dai. Oh, se no, signori, non ci siamo capiti. Non abbiamo capito che siamo di fronte a una ripresa importante della diffusione dell'infezione. E che su questa base, torniamo al discorso di prima, tocca stabilire gerarchie di importanza, di cose che dobbiamo tenere in piedi ed aperte perché indispensabili per tentare di convivere con il virus, ed altre che lo sono, ahimè, di meno, che non sono questa del calcio. Vi rendete conto del ragionamento assurdo? Certo. Ma che cosa cazzo vuol dire? Ma chi ritiene indispensabile cosa? Esatto, perché andiamo a votare? Infatti lui stesso perché ha detto che non bisognava andare come? A votare. Galli aveva detto che non bisognava andare a votare. Aveva detto, in pandemia non si vota, capito? Perché chi se ne frega? Tanto c'è un governo, si fa lo stato di emergenza e si prolunga fino alla fine. Tu hai visto ad esempio che oggi è tutto a Galli. No, tutto a Galli, tutto ai dottori, no? Dai, su. Perché servono? A che servono i politici? Decide lui. Beh, senti, i politici Porro, vanno considerati senti Porro, tecnici, senti Porro, Porro contro Sgarbi, senti Porro, Porro è un egoista perché ormai lui senti si è Porro ammalato. Contro Sgarbi, senti sì contro Sgarbi, contro Galli, senti. Oggi straordinaria l'intervista a Galli che riesce a dire sul Corriere della Sera che abbiamo passato un'estate troppo vivace. Cioè un cazzo di medico ci spiega che abbiamo passato un'estate troppo vivace. Come si permette? Vivace sarà lui che non ha nessun diritto di dire come noi passiamo la nostra estate, che peraltro è stata molto triste rispetto a un'estate in cui i ragazzi hanno il sacrosanto diritto, dovere di fare come cavolo gli pare. Quando il virus si diffonde nei contagi ma non nelle malattie è colpa dei cittadini, e quando invece il virus è sotto controllo come sembrava un mese fa è tutto merito delle operazioni del governo, tutte stupidaggini. A un certo punto qualcuno si ricorderà e racconterà questi anni come il grandissimo inganno di questo governo nei confronti dei cittadini. Poi se la piglia con De Luca per l'aumento dei contagi in Campania, senti, senti. Avete presente il fenomeno De Luca, il presidente della Campania, quello che è stato eletto dai napoletani, dai campani, dagli avellinesi, dai beneventani con una maggioranza incredibile? Avete fatto bene a leggerlo, perché lui è quello che combatteva col virus, è quello che ha fatto per prima l'ordinanza del 24 settembre per obbligare tutti con le mascherine. Beh, cosa è servito tutta sta roba De Luca? Zero. Che vuol dire? Zero! È la regione col maggior numero di contagi. Questa è una malattia che si contagia con grandissima facilità. Il 94% di queste persone contagiate è asintomatica o con bassi sintomi, come dicono tutte le statistiche, ma nessuno ve lo dice. Ma De Luca vuol fare lo sceriffo di merda e continuerà a farlo lo sceriffo. Sapete quanti sono i posti letto Covid in Campania di questo cialtrone di De Luca? 555, dice il Corriere della Sera, di cui 410 occupati. E allora? E allora, ma perché invece di prendersela con i cittadini non ce la prendiamo con De Luca, che non ha fatto terapie intensive e ospedali soprattutto? Il campano che faceva tutto il fenomeno, che ha fatto tutto il coso e accusava la sanità lombarda, in realtà c'ha 91 soli posti terapia intensiva e solo 550 posti letto per la cosa. Sono dei pazzi! Lores da Vicenza, è lei, è proprio lei, cosa ci chiama? Dimmi, cosa ci chiami a fare, cara Lores, come stai? Benissimo io. Dimmi, dimmi. Allora, dimmi, devi darmi un attimo, sì, ti spiego cos'è il Covid. Trombata alle elezioni. Trombata alle elezioni, non ci spiega cos'è. Adesso, allora, non c'entra niente, dai. Io ho una nipote che abita a Torino, sì. Il figlio ha dato la tesi il 3 sì. marzo, sì. Via, online, perché non si sì. poteva più dare. Sì. Ok. Hanno fatto la cerimonia comunque l'altra settimana. Il fratello. Sì, già non capisco la parentela. Niente, comunque, capisce niente. No, è una mia nipote, cazzo, abita a Torino. Sì, ok. Nipote, okay. Il figlio si è laureato ancora sì. in marzo, ma hanno fatto sì. la cerimonia la sì. 10 giorni fa. Sì. I due fratelli, mia sorella e due nipoti, dovevano andare a questa festa. Sì, sì. Che succede? E Lores non doveva andare, però no, non faccio ci una domanda. Andare. Che confusione, no, fratelli, zii, nipoti, non ho capito. Sono andati, è stata invitata sono zia Matta? Andati. Hanno avuto il Covid, cazzo. Hanno avuto il Covid chi? Hanno avuto il Covid chi? Nipoti? Chi è tuo nipote? Chi l'ha avuto il Covid? Allora, un mio nipote sì. è stato poco bene il giorno prima, è rimasto sì. a casa e sì. quello è stato ricoverato. Sì. Gli altri erano sì. in 5 in macchina, sì. 3 positivi, ma sì. l'hanno saputo dopo. Ma c'erano zio e nipoti c'erano in macchina. Chi c'era? Vabbè, chi se ne frega. C'erano due nipoti, sì. un e due pronipoti. Ma quanta gente sorella. C'è sta macchina? Da quanti posti è sta macchina, ragazzi? Cinque. Era una incredibile. Era una multipla. E allora? Sono andati a Torino, hanno sì, dormito Torino, in casa con mia nipote. Sì. E allora? Va bene, tutto ok. Hanno saputo che il marito rimasto a casa marito, sì. era stato ricoverato all'ospedale sì. per Covid. Porca allora? Miseria, poveretto. Allora? Ok. Allora, hanno dovuto subito andarsi a fare il tampone, sì, anche beh, le certo. figlie allora? E la moglie. Allora? Tutte e tre positive. Sì, vabbè, dunque? Mia sorella e un altro nipote che erano in macchina 4 ore andare, 4 ore sì, tornare. Sì, la sorella e il nipote, sì. Niente. Negativi. Vabbè, quindi cosa vuol quindi dire? Che vuol dire? Si sa che è così sto virus. E quindi cosa dimostra? Si sa sta che roba? Così, che hanno dormito insieme. Ma quindi cosa dimostra sto virus? Non ho capito. Dimostra che è una grande cazzata. No, scusi, adesso il nesso non riesco. Allora, lei per tutti questi mesi non ha capito un cazzo. È evidente che su alcuni soggetti ha degli effetti, poi ci sono gli asintomatici, i positivi asintomatici, e poi ci sono gli idioti come te. A casa. Hai allora? Capito? E allora è una merdata, non esiste, è un'influenza. Ma se quella è stata pure ricoverata. Un'influenza. E dunque mi stai dicendo che sei tu sei negazionista sostanzialmente, oltre che essere. Ma io te lo dico, ma ci vuol tanto a capirlo che è una grande cazzata. Dunque è un complotto compl- dell'Italia contro il Veneto. È un complotto di questi miserabili del governo. E voi volevate mandare questa qua nel Parlamento regionale in Veneto? Voi ma due volevate mandare questa qua. Scusa, vacci tu, coglione, in Parlamento. No, vacci cane, tu, venduto. Cane rognoso. Che stai facendo solo pubblicità al vaccino, ai vaccini al e basta. Vaccino, certo, quanti soldi prendi? Purtroppo zero. Purtroppo quanti zero. Soldi prendi? Sempre facendo pubblicità ai vaccini. Quanti soldi prendi? Lo dico per la salute pubblica. Ma cosa vuoi scoprire? Ma lo cosa vuoi scoprire? Lo scopriremo solo. Ma scusa, vivendo. sta vecchia che ha più di 70 anni dovrebbe fare il vaccino, peraltro, che è obbligatorio per queste nonnine qui. Sta chi, nonnina Dores? Incazzosa. Sta nonnina incazzosa. Dovrebbe prendere. Tu. Domenico da Lucca, dimmi. Ciao Cruciani, mi senti? Ti sento, dimmi. Allora, no, come Parenzo sembra che sia sempre visto l'uomo, l'uomo perfetto. Aspetta. Ma prima o poi lo becco, Prima o poi lo becco. Ma chi è che chiami? Prima o poi lo becco, non lo posso dire, ma prima o poi lo becco, Prima o poi lo becco, non ti preoccupare, prima o poi lo becco. Vabbè, Domenico, che stavi dicendo? Stavo dicendo che Parenzo è tutto lì a Modino, sembra casa e chiesa, ma io mi voglio chiedere una cosa, ma te Parenzo? Le donne che hai avute le hai trovate tutte incignate? Scusi, la parola incignate significa, cioè, che vuol dire incignate? Come natura crea. Cioè che vuol dire come natura crea? Non ho capito. Cosa vuol dire? Cioè come la trovate? La trovate come? Non ho capito. Come natura. Stavo si dice a Lucca. Quando uno è già stato con una donna l'ha trovata incignata. Incignata. Cioè incignata vuol dire l'Italia, già, amico mio. Già più l'Italia. Già più volte scopata, dici te, incignata. Bravo. Ma non ho capito che c'entra. Tra animali si capiscono. Che c'entra con Parenzo questo? Qual è il collegamento con Parenzo? Che lui è sempre uno tutto lì a Modina, sembra che cosa significa sia chissà di che. E invece e volevo sapere se lui le donne che ha trovato, Domenico le donne da Lucca, che ha avuto, Domenico da Lucca, l'hai trovato sempre a Modino le come posso, natura crea. Le posso fare una domanda proprio diretta, diretta e tranquilla, senza diretta, offenderla? Diretta, se non voglio offenderla, veramente non voglio dire che lei è una testa di cazzo in alcun modo. Sì. Le voglio chiedere questo: uno, lei che trasmissioni guarda la sera in televisione? Guarda molto Rete 4 o la 7 in genere, lei, sinceramente? Io Rete non c'ho 4. Tempo perché lavoro. Sì, lavora lui lavora. E perché ha votato? Non c'ho tempo perché lavoro io. Ma ha sempre lavorato? Sì, ha sempre lavorato questo signore? Sempre. Io lavoro dalla mattina, dalle 6 la mattina fino alle 8 e 9 la sera. E che fai da Mario Giordano? Poi torna a casa. Sono cotto come una pera. E che fai nella vita? Che fai nella vita? Io faccio le sabbiature. Le sabbiature? Le sabbiature industriali e civili. E poi cosa fa? Poi guarda Del Debbio il giovedì sera, magari. No, non lo guardo. E ti dico una cosa, guarda, ma te lo dico veramente con tutto il cuore, te lo dico. Io da quando ho 18 anni che ho sempre votato a destra. Ma non sono mai stato un razzista. A casa mia ci stava delle famiglie marocchine, l'ho sempre aiutato. Sempre aiutato. Però scusami, il pelato ti piace un po'? Un po' di nostalgia per il pelatone ce l'hai, per sua eccellenza? Sì. Sì, tanto. Lo vedi, però non è un razzista. Basterebbe una settimana. Una settimana con sua eccellenza. Però non è un razzista, ha sempre lavorato e quell'altro ha fatto le leggi razziali. Però lui non è un razzista. Pazzesco, meraviglioso. E non sempre aiutate la gente. Certo. Però gli piace Mussolini, che era un po' razzista, però benissimo. Ti piace di sua eccellenza? Perché vorresti una settimana con sua eccellenza? Dimmi. Lo sai perché? Perché lui ha fondato tanto sul lavoro. Tanto sul lavoro. Il lavoro. Che vuol dire il lavoro? Sì, certo, c'era la dittatura. Il lavoro. La gente vuole lavorare. E perché c'entra Mussolini col lavoro, scusa? La gente vuole lavorare. Sì, ma che c'entra Mussolini col lavoro? Ha fatto tante cose belle, tante cose brutte. Certo. Ma ha fatto anche tante cose belle. Ha fatto tante case brutte. Sì, ma una settimana. Perché una settimana però vorresti? Una settimana col peccato? Perché manderebbe via tutta quella gente che c'è lì che non capisce nulla. Ma chi? I governanti. Dunque, ma ci sarebbe la zanzara in quella settimana? Ho capito, in quella settimana Cruciani, che fine farebbe Cruciani? In questa settimana la zanzara farebbe una brutta fine questa trasmissione, in quella settimana lì, nella settimana mussoliniana, dai. Ma io non credo. È vero che il Duce era un bel porco, dunque magari al Duce piacerebbe qualche pezzo di questa trasmissione. Hai capito. Era un grande trombatore, era uno che pare che avesse l'eiaculazione precoce, giusto David? O sbaglio? Sì, così scrive. Così scrivono. Tu ci credi, il pelatone? Il pelatone con l'eiaculazione precoce? Il Duce con l'eiaculazione precoce. Ci credi, Domenico? Ci credi tu? Ci credi? Non lo so. Non lo sai. Non lo so. Ciao, amico mio. Ciao, ti saluto. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.